affiora nella nebbia. Sparami contro. Cammina, sbranati. Fiorisci, adombri, scorri. Condensati dalla bruma della fienagione. Invadi il mio viola, viola. Preparami, viola, contienimi, tienimi o buttami. Sprecami, allattami, attuami. Poesia. La fiora, fiora della nebbia, sparami contro. Cammina, sbranati, fiorisci ad ombra, scorri, condensati dalla bruma della fienagione. Invadi il mio viola, viola, preparami, viola, contienimi, tienimi, o buttami, sprecami, allattami, attuami. Poesia. Sparmi contro, cammina, sbranati, fiorisci ad ombra, scorri, condensati dalla bruma della fienagione, invadi il mio viola, viola, preparami, viola, contienimi, tienimi, buttami, sprecami, allattami, acqua, poesia.